Irrinunciabili presenta per RadioBigWorld.com The Boondock Saint, un film di Troy Duffy. Boston è una città dura, gente spigolosa, clima rigido. E anche i santi da quelle parti non scherzano, si adattano all'ambiente. In particolare se sono due fratelli irlandesi, timorati di Dio, che vivono in una bettola e sono poliglotti, perché stavano attenti a scuola. Come ogni irlandese che si rispetta, hanno un pub preferito. E cosa c'è di meglio se non finire nei guai con la mafia per difendere l'amato pub? Per cui prendi ammazzate un mafioso russo il giorno di San Patrizio, poi questo si vuole vendicare, e lo devi fare fuori per forza, se no uccide te e tuo fratello. Ma ci prendi gusto, e men che non si dica ti ritrovi a uccidere mafiosi come se non ci fosse un domani, perché scopri di avere una vocazione, una missione. Con queste promesse a Boston non puoi che diventare un santo. Dal momento che tutto è sopra le righe, i santi hanno un amico, o meglio, un discepolo. Meglio se italo-americano. Meglio ancora se pare la versione in acido di Al Pacino in Serpico, Rocco. Detto il simpaticone perché racconta barzellette, che però non fanno ridere. Due santi e un discepolo per ripulire Boston. La pulizia però è una liturgia, riti rigorosi, passaggi e citazioni. Lo stile è importante. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Tanta abnegazione e spirito cristiano non può che creare ammirazione, perché dove non arriva la polizia arrivano loro. E capita anche che uno straordinario William Defoe sia un poliziotto, gay. Ma non fateglielo notare, perché è un vero duro e vi prenderebbe a calci in culo. Ha una mente acuta e una lingua tagliente, si diverte a prendere in giro i suoi colleghi tontoloni che non hanno il suo acume. In tutto questo tritacarne abbiamo uno dei film d'azione hard bullet pulp più carismatico e sottovalutato che sia mai stato fatto. La black comedy è ovunque, come del resto i personaggi grotteschi, perché alla fine è tutta una questione di stile e divertimento, la violenza è priva dei suoi aspetti più truci, perché è tutta una gran festa, siete invitati al party dei fratelli McManus a colpi di battute, citazioni religiose che suonano come sentenze, dialoghi un po' stile Tarantino e tanto tanto piombo. Rocco il simpaticone fa morire da ridere e lui chiaramente è capitato lì in mezzo per caso. Willem Dafoe è straordinario, in uno dei poliziotti più atipici che si siano mai visti, Smacker. Normalmente in un contesto del genere un poliziotto gay verrebbe trattato dagli sceneggiatori in altro modo, ma qua invece lui il duro, il capo carismatico, per cui i colleghi hanno timore reverenziale. L'interpretazione di Dafoe è eccezionale, ci mette veramente tanto di suo. I due fratelli sono belli e poco dannati. Ti aspetteresti di trovarli sempre al pub a bere Guinness dopo il lavoro. Fanno tutto con una certa leggerezza e naturalezza, che poi è l'animo del film. Hanno uno spirito che ricorda un po' quello di Bruce Brothers, però uccidono i cattivi. Siamo dunque in pieno ambito giustizieri vigilanti, il quesito alla fine è sempre lo stesso. Ci dispiace veramente che i cattivi siano fatti fuori? Ma è un dilemma che dovrà anche affrontare Smacker, infatti avrà una crisi, e direi mistica date le circostanze, perché deve fare rispettare la legge, lui è un uomo d'ordine, ma non può non provare ammirazione nei confronti dei santi. Il film ha avuto un budget ridicolo, 6 milioni di dollari, girati in un mese. Con il passare del tempo è riuscito a crearsi una schiera di fan, e può essere considerato un piccolo cult a tutti gli effetti. Anni dopo è stato fatto anche un seguito, ma non vale la pena, lasciatelo pure perdere. Tutti gli ingranaggi sono incastrati tra di loro perfettamente, molto belle le scene dei crimini e le loro ricostruzioni. Smacker si muove leggero, ascoltando musica classica che gli facilita le sue preziose intuizioni. Willem Dafoe era l'unico attore veramente famoso presente nel cast all'epoca. Uno dei santi però è il mitico Daryl Dixon di The Walking Dead, Norman Reedus, che ora è al suo picco di celebrità. Presente anche il leggendario attore porno Ron Jeremy in una piccola parte dove interpreta un mafioso italiano, peraltro molto bene. Stile irlandese, tante risate piombo, misticismo religioso, ma cosa state aspettando? Dai, va là, fate i bravi, andate a vedere questo film e unitevi al party dei santi. Buona visione.